10 convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Beh, buongiorno e buon Natale a tutti, non solo da parte mia ma anche di Franco Piantanini, autore di questo programma, di Capitan Fabio Cantadori in regia. So che in questo momento siete alle prese con i pacchetti e il panettone, quindi non voglio rubarvi tempo chiedendovi di rispondere alla convocazione, però se siete lì, jingle bell lo ascoltate da questa mattina, il concerto di Capodanno è ancora lontano, potete sintonizzare la radio su Radio 24 e ascoltare tutti i convocati. Può essere un'idea interessante, magari anche col computer nuovo, quello che avete trovato sotto l'albero. Allora, vi stiamo riproponendo in questi giorni alcune delle interviste più interessanti, più grosse, più colossali che abbiamo realizzato in questa prima parte di stagione di Tutti Convocati. Una di queste è stata certamente quella con l'allenatore attuale del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ha parlato con noi qualche giorno dopo la sconfitta bruciante con il Barcellona in Liga. Da lì si è aperto un lungo filotto di vittorie per Ancelotti. E poi c'è da dire che è assolutamente in tema con la giornata di oggi, perché il titolo del libro di Carlo Ancelotti, di cui abbiamo parlato peraltro con lui, il titolo è Il mio albero di Natale, che non, ovviamente non è l'abete con le palline colorate, ma è lo schieramento che si è inventato al Milan, creando qualcosa di nuovo e di vincente, e da lì è partita la storia dell'allenatore Carlo Ancelotti, capace di vincere campionati e Champions League a raffica. È stato con noi, tra l'altro siamo tutti pronti per qualcosa che vi ricorderò dopo, cioè, gennaio andremo tutti a Reggiolo, ma sentite Ancelotti poi ve lo spiego. Noi vogliamo sapere tutto, no, naturalmente, beh. No, anche se so che, però insomma, le cose, albero di Natale, albero di ottobre, perché già ottobre, no, è ancora settembre. Albero di ancora Natale settembre. Potrebbe essere anche una buona soluzione per domenica. Mm. Ecco che è arrivato Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, ma soprattutto è arrivato uno degli ospiti più grandi di tutti. Signore e signori, l'allenatore del Real Madrid. Giuro che non è un imitatore. Carlo Ancelotti, ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai, Carlito? Tutto bene? Bene, grazie. Sole a Madrid. Sole a Madrid. Passa bien? Todo bien. Ti sembra di parlare con Capello, di la verità, Carlo. No, io devo ammettere pubblicamente che Carlo Ancelotti mi ha creato di recente un problema, perché alla scuola di mio figlio è andato da leggere come compito un libro a scelta, e lui ha scelto Il mio albero di Natale. Ha fatto bene, ha fatto bene. Ti dirò. Tu dici, devo spiegarglielo, anche perché non è esattamente un libro per bambini, no, Carlo? No, non è un libro per bambini, è un libro soprattutto per tecnici e per allenatori, e soprattutto per chi ama questo sport e ne vuole sapere un po' di più, insomma, da dietro le quinte. Vediamo anche a Pardo. Per esempio, ho scoperto, Carlo, che oggi è il giorno, essendo venerdì oggi, è il giorno del miglioramento della velocità in una settimana in cui non ci sono le coppe. Miglioramento della velocità con esercitazioni con o senza palla, ma non è un po' rischioso? Tu in questo libro racconti, con Giorgio Ciaschini, racconti un po' di segreti sull'organizzazione del lavoro, sulle tue idee tattiche, insomma, non è un po' troppo inside questo libro? Non è che poi Mourinho se lo legge? No, è molto inside, ma guarda, nel calcio non ci sono segreti, oramai... Con la tecnologia si può sapere tutto di tutto e di tutti, quindi non mi preoccupa questa cosa qua. No, mi ha dato piacere farlo questo libro qua proprio per quello, per spiegare come il calcio è cambiato negli ultimi anni, come sono cambiate le metodologie di lavoro, come il ruolo dell'allenatore è cambiato nel tempo, perché oramai... hai a che fare soprattutto nelle grandi squadre con degli staff molto, molto grandi, e quindi devi anche avere la capacità di delegare le competenze. È un mio pensiero profondo, Carlo, che allenare una grande squadra sia un mestiere diverso rispetto all'allenare una squadra media, normale, una qualunque altra concorrente. Sia un mestiere molto diverso allenare un grande club. Un grande club cambiano... cambiano certamente delle cose, ma soprattutto al di fuori del campo di allenamento, perché il campo di allenamento, le problematiche dell'allenamento, le problematiche della relazione con i giocatori credo che siano le stesse da tutte le parti e in tutte le categorie. Dopo, quello che cambia sono i rapporti con l'esterno, la pressione della stampa, il rapporto col club, con i tifosi. Quello sicuramente cambia a differenza delle squadre che vai ad allenare, perché è differente allenare il Real Madrid per un certo tipo di pressione che ti mette la stampa e ti mettono i tifosi, è differente allenare il Chelsea dove la pressione praticamente non esiste al di fuori. Sì, poi c'è Pardo che ti chiama. Dal 4-4-2 che tu hai definito scolastico di Reggio Emilia, che era il sistema di gioco che conoscevi meglio da Sacchiano, in questi anni, scusate, ma io sono appassionato di tattica, 30 secondi, poi parliamo di tutto quello che volete, qual è la cosa principale che hai imparato? Cioè lo stimolo principale, partendo da quella situazione che in quegli anni lì era dominante, no, in giro per l'Italia e per il mondo. Ma quello che ho imparato è che un allenatore si deve adattare per costruire un sistema di gioco, si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori, per far sì che i giocatori si sentano comodi in questo tipo di gioco. Non puoi imporre un sistema di gioco dove i giocatori non si trovano bene, non sono convinti, non sono coinvolti. E quello ho imparato, l'esperienza mi ha fatto imparare quello. Ad esempio Conte, quando è arrivata la Juve, che aveva quei centrocampisti centrali fortissimi, non c'era ancora Pogba, ma c'erano già Marchisio, Pirlo e Vidal, tutti dicevano che avrebbe giocato col 4-2-4, invece è passato a 3. Quello è un esempio in questa direzione? Sì, ma ce ne sono tanti di esempi, perché quello è sicuramente un esempio, perché alla fine devi impiantare un'idea di gioco dove i giocatori si sentano responsabili prima di tutto e soprattutto coinvolti. Non puoi mettere una cosa dove i giocatori non si sentano a loro agio. Cioè, ci devono credere. Perché poi alla fine i successi di un allenatore sono legati alla convinzione che hanno i giocatori e niente più. Sì, ci devono credere. È come mi viene in mente, sentendoti parlare, mi viene in mente Phil Jackson dei Chicago Bulls e il suo triangolo. Non so se hai studiato questa materia, Carlo. Più o meno, Phil Jackson lo conosco. Era anche quella una filosofia, ma lui dice, scrive, eccetera, da guru qual è: i giocatori ci devono credere, se non ci credono puoi fare tutto quello che vuoi, puoi inventarti le cose più belle del mondo, dall'albero di Natale al triangolo. Senti Carlo, tu ne hai allenati tanti ovviamente, ma ti devo confessare, ma tu lo sai che almeno per quanto riguarda Pardo abbiamo due idoli. Nell'armadietto qui a Radio 24 abbiamo le foto di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, perché ci accontentiamo di poco noi. Siamo ragazzi, capito? Tra l'altro adesso c'è anche la qualificazione sfida mondiale. Esatto. Questa sfida. No, ma la cosa che ti ha, non ti chiedo chi è più forte, eccetera, ma la cosa che ti ha sorpreso di tutti e due, partirei da Cristiano Ronaldo, che diciamo è l'immagine più fresca. Ma Cristiano Ronaldo soprattutto la professionalità, un giocatore molto molto applicato nella cura dei piccoli particolari, nella cura del suo aspetto fisico, non lascia niente al caso, molto serio in allenamento e molto motivato. C'è un po' di pregiudizio. Per un certo verso anche Ibrahimovic è lo stesso, perché Ibrahimovic è sul lavoro, non scherzo, hanno caratteri sicuramente diversi, ma li accomuna la grande professionalità. Un po' di pregiudizio estetico, che penso a Cristiano Ronaldo, penso anche a quello che poteva riguardare Beckham, no? Dei giocatori che diventano talmente tanto sexy, icone, amati dalle donne, che quasi l'aspetto invece di professionalità dell'essere calciatore, nel profondo, in certi casi mediaticamente sembra quasi passare in secondo piano. Sì, no, ma in realtà poi dopo all'esterno esce questa immagine, ma poi dopo all'interno è un'immagine completamente diversa. Veramente Ronaldo pensa al suo mestiere, a fare il meglio, e d'altronde se non fosse così non può stare a sti livelli e segnare 50-60 gol tutti gli anni, sì. se non ha una professionalità ai massimi livelli, e lo stesso vale per Ibrahimovic. I campioni non possono stare con questa continuità ad alto livello per tanto tempo se non si curano in una maniera perfetta. Senti, facciamo un po' di polemica in Spagna partendo da questa considerazione. Io e Pardo, se siamo disposti, se danno un altro pallone d'oro a Messi e non lo danno a Cristiano Ronaldo, premesso che a me il pallone d'oro non piace tantissimo come premio, in generale però io e Pardo andiamo a fare un sit-in in Piazza del Duomo a Reggiolo. Vabbè, posso venire pure io se ecco, se potessi unirci anche qualcosa di alimentare, visto esatto. Che ho avuto il piacere. Se ci consiglia anche un ristorante. Non mancherebbe. Senti, che vuol dire? No, che credo che cioè, questo anno, se devo dare un premio individuale, non c'è nessun altro che lo possa meritare se non Ronaldo. Certo. E punto. Poi dopo... è vero che il pallone d'oro lo accomunano molto anche i successi di una squadra, ma il pallone d'oro da sempre è stato il premio al miglior giocatore e credo che in questo periodo il miglior giocatore è sicuramente Ronaldo. Ma che vuol dire che al Milan, tu scrivi nel libro, al Milan non basta vincere per rimanere, non è sufficiente perdere per essere esonerati? Che vuol dire? Ma perché ci sono squadre che... il destino di un allenatore non è legato solamente al risultato. Insomma, io sono stato 8 anni al Milan e non è che abbiamo vinto sempre, abbiamo avuto anche cocenti delusioni. Rimanere al Milan significa seguire un tipo di filosofia che è stata dettata dal presidente Berlusconi quando ha preso il Milan, che è legata allo spettacolo, all'immagine, e un allenatore deve per cercare di perseguire questo, per cui il risultato non è sempre, come spesso succede per la nostra categoria, l'aspetto determinante, cioè seguire una certa filosofia, una certa mentalità è importante per il Milan. Sì, è importante anche Galliani, Carlo. Io non so cosa possa rimanere di questa struttura, cosa possa cambiare senza Galliani. Gagliani è stato sicuramente la persona più importante, perché Gagliani non è solamente un dirigente, è un dirigente tifoso che ama questa squadra, che è cresciuto con questa squadra, che ha fatto tantissimo per questa squadra, che ha un'esperienza che nessun dirigente al mondo può vantare come Gagliani, e per cui l'assenza di Gagliani certamente mancherebbe tantissimo al Milan. Adesso non so che cosa succederà, perché ogni squadra e ogni società ha le proprie idee, ma certamente a livello di esperienza Gagliani non ha pari. Lascio l'ultima domanda a Tiki Taka Pardo. Ah, ci vediamo lunedì, fra l'altro, a Tiki Taka, quindi lunedì sera facciamo una lunga chiacchierata, rivivremo un po' della carriera. Tra l'altro c'è un Tiki Taka anche qui in Spagna, lo so. Va abbastanza bene pure quello. Pardo copione. Dire. No, tra l'altro Tiki Taka sembra un affronto a Carlo, perché insomma è lo schema, è la filosofia del Barcellona, ma siete distanti? Adesso c'è un dibattito, un dibattito a Barcellona a proposito del Tiki Taka, che sembra che sta cambiando qualcosa. Ma qui da noi invece Tiki Taka all'inizio nessuno sapeva che programma sarebbe stato, quindi sembrava potesse diventare Kittika, ecco, capito? Ecco, poteva diventare inquietante. No, volevo capire se siete distanti dal Barcellona, se in cuor vostro vi sentite... almeno alla pari. È chiaro che ci sentiamo almeno alla pari, però adesso ci sono questi 6 punti di distacco, credo che sono stati legati soprattutto al fatto che ci abbiamo messo tempo a cercare un certo equilibrio per cambiare qualcosa nel gioco rispetto all'anno passato, e 6 punti qui in Spagna non è che sono tanto facili da recuperare, perché gli ultimi 4 anni la squadra che ha vinto il campionato ha fatto 100 punti. Certo. Quindi ci sono poche trappole. Dobbiamo tener duri in questo periodo, perché la squadra sta migliorando veloce. Grazie Carlo, ci vediamo lunedì. Mi raccomando, a voi. Mi raccomando quel ristorante suerte. Di Reggiolo, suerte. Mi raccomando. Ciao. Grazie a Carlo Ancelotti. Dunque, siamo tutti pronti al City Team, perché a metà gennaio c'è il sorteggio del pallone d'oro. Se non lo danno a Cristiano Ronaldo, siamo pronti a mobilitarci. Tra l'altro, queste dichiarazioni di Ancelotti hanno fatto un chiasso pazzesco in Spagna, riprese da un sacco di da tutti i principali quotidiani spagnoli. Ebbene, adesso il dado è lanciato, ci troviamo tutti a Reggiolo quando il 14, se non ricordo male, 14 di gennaio, se il pallone d'oro non verrà alzato dal portoghese, tutti lì, non in piazza del Duomo ma in piazza della Reggia o della Rocca. Morale, facciamo a casa di Ancelotti e non ci sbagliamo. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi torniamo per parlare di Inter con un allenatore nerazzurro, che però non è Mazzarri.

dopo questo inizio di campionato la Roma può entrare con pieno diritto tra le pretendenti, così come il Napoli. Fermo restando che io penso ancora che la Juve sia un gradino sopra le altre. Sì, io faccio tipo, sarei molto felice se vincesse la Roma oppure Napoli, sarei molto felice di questo, anche se mi vengono i brividi alle dichiarazioni di Ignazio Marino stamattina, se vince mi spoglio. Quello tu Cola, se ti spogli, se andate in Europa League, ti spogli, strappa. Io non mi spoglio, no, sarebbe uno spettacolo. C'è una bella fisicata, Cola, voglio dire. Vabbè, perché invece Marino spettacolone, Spogliamo Marino magari. No. ma Marino il sindaco di Roma. Non Marino il sindaco, Io parlavo di Marino nostro. Allora facciamo una cosa, se succedono quelle due cose, i due Marino, facciamo spogliare il Marino. Va bene, mi sembra abbiamo deciso noi per loro, ditemelo che prendo un biglietto per un'altra parte del mondo. Ditemelo prima. Un'ultima cosa, mister, ti chiedo di leggermi le partite di stasera, due partite di stasera, Milan-Lazio, sì, già bollente, Fiorentina-Napoli. Sì. Grande fascino di questa partita che si profila meravigliosa. Beh, due bellissime partite, sono quattro squadre che fanno un altro tipo di campionato rispetto a quello che abbiamo menzionato poc'anzi, che è poi quello che riguarda noi. Sono quattro squadre che sicuramente alla lunga poi lotteranno per altri obiettivi. Sono belle partite, hanno tutti degli interessi particolari, c'è molto equilibrio in tutte e due le partite, perché le quattro squadre sono tre squadre di livello, per cui il pronostico è di difficile interpretazione. Grazie. Grazie mister. Grazie, buon lavoro. A presto. Grazie, a presto, grazie. Pieno di spogliarelli questa stagione, ormai qua. Ma fate giù a deve spogliare. C'è una cosa, no? Meno male che sta venendo freddo. Fermiamo giusto per ascoltare un po' di pubblicità, Potete tornare per qualche minuto al mascarpone, poi vi aspettiamo di nuovo qui e vi faremo divertire con la Formula 1, ma non solo con la Formula 1. Con Leo Turrini, cioè il più divertente, pazzo, bizzarro, competente cantore della Formula 1. Tutti convocati. Allora, nell'ultima stagione di Formula 1 onestamente ci siamo rotti le scatole tutti quanti. La morte, credo, di uno sport è quando conosci già prima di cominciare il nome del vincitore. Siamo stati abituati a questa situazione spesso, soprattutto in Italia, con le lunghe egemonie di Treviso nel rugby, di Siena nel basket e forse possiamo dirlo anche della stessa Juventus nel calcio. Insomma, le lunghe egemonie, le tirannidi sono quanto di più nocivo si possa immaginare per lo sport. Figuratevi per la Formula 1, già uno sport che ha perso gran parte del suo appeal, anche televisivo. Ebbene, abbiamo da ormai molte stagioni un solo dominatore tedesco, il nome lo conoscete benissimo, non è Michael Schumacher, ma il suo fratellino minore, Sebastian Vettel. Per la Ferrari solo un lungo digiuno, una lunga carestia che ha fatto anche così uscire dai gangheri in diverse occasioni in questa stagione Fernando Alonso. Nella prossima stagione copia tutta nuova in rosso, come sapete, Alonso e Raikkonen, ma sarà una stagione particolare perché sono uscite una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, notizie secondo cui avremo nuove regole. Nuove regole che sono due. Nell'ultimo Gran Premio della stagione il premio, cioè i punti, saranno raddoppiati. Quindi se ci sono diversi corridori in lotta per il titolo potranno avvalersi di questa sorta di giollone. Il primo che vince 50 punti e via di conseguenza, cioè punteggio raddoppiato rispetto alla classifica abituale. E poi un'altra novità che nel moto mondiale ormai da tempo in uso, cioè quella secondo la quale i piloti sceglieranno un numero dal 2 al 99, l'1 resta riservato al campione del mondo in carica, quindi dal 2 al 99, e questo numero si porteranno dietro per ciò che resta della loro carriera e a prescindere dalla macchina che andranno a guidare. Allora, di tutto questo abbiamo parlato con il nostro amico Leo Turrini. Briscolone, hai la coda più lunga di un pitone, sembri un gatto ma sei quasi un leone. questa la dedico al mio grande amico Leo Turrini, anche perché l'ha scelta lui, e adesso vi spiega perché. Ciao Leo. Intanto ciao a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io ti ho suggerito il briscolone perché questa trovata annunciata ieri sera da chi comanda in Formula 1, vale a dire che l'ultimo Gran Premio della stagione è solo quello, assegnerà il doppio dei punti, è una roba che mi riporta a una canzonissima, sì, di Pippo Baudo, sì, quando appunto c'era il briscolone che Peppino Gagliardi o Massimo Ranieri o Tony Sant'Agata, pescando una carta dal mazzo, potevano aggiungere ai voti effettivamente ottenuti tramite il pubblico 20 o 30 mila suffragi in più. Ecco, questi qua la Formula 1 è la stessa cosa, hai capito? Mettiamo che l'anno prossimo... Abu Dhabi, briscolone. Bravo, arrivi alla prossima stagione, ultima gara, Fernando Alonso ha 48 punti di vantaggio, un gran premio dalla fine, meritatamente conquistati, con ogni vittoria premiata 25, fa un incidente alla prima curva, magari per colpa di Grosjean, dato che è, sì, già capitato l'anno scorso, non può gareggiare, quello che ha 48 punti di distacco, no, facciamo un nome a caso, Vettel, sì, vince la corsa, nei tasca 50 ed è campione del mondo. Qui siamo al wrestling, cioè, devo dire, ormai la Formula 1 sta diventando una carnevalata, o avrebbe detto il ragioniere Ugo Fantozzi, una boiata pazzesca. Sì, mi par di capire che non ti piace tantissimo la soluzione del briscolone, anche no, perché leggendola all'indietro, con il briscolone la Ferrari avrebbe un paio di mondiali in più e questo, guarda, non tira giù. Briscolone, caro Gito, tu sai che io quando parlo con te trovo la stessa felicità descritta da Benigni, no? Cioè, mi metterei tutto in nudo perché la tua è la trasmissione radiofonica più bella d'Europa. Ma il briscolone fa rima con rosicone. Sì. Allora, se uno, dico per puro diletto, sì, sì, sì, certo, applicasse a ritroso questa normativa, scoprirebbe che nel 2008 il povero Massa si sarebbe laureato campione del mondo avendo vinto l'ultimo Gran Premio, sì, in Brasile, e che lo sventurato Alonso, il samurai, quello che usava Twitter, il fidanzato di Dasha, la Rava, la Fava, l'anno scorso avrebbe vinto il titolo perché era l'ultimo Gran Premio, arrivò secondo, insomma andò sul podio, precedette Vettel. Con questo principio che a me ricorda anche, ti ricordi Giochi senza frontiere, quando c'era il Fil Rouge, Olivieri e quell'altro, Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, bravo, al quale Alonso avrebbe vinto il campionato. Quindi per noi ferraristi rosiconi questa è una beffa, devo dire, è sale sulle ferite. Ma io credo che qui ci sia bisogno, posso tirare in mezzo Renzi, Alfano, sì, e anche Salvini. Puoi fare quello che vuoi. Allora, in Formula 1 purtroppo al potere non sono ancora arrivati e non arriveranno mai, temo, i quarantenni. Perché queste sono trovate partorite da Eccleston. Perché invece alla FIFA c'è un ragazzino. Bravo, ma io adesso sto parlando di Formula 1. Tutta questa gente in carta pecorita che si crede immortale, che ormai ha 80 anni, è immortale. Che magari si ricorda di aver visto il briscolone di Pippo Baudo in TV 45 anni fa, o anche Mike Buongiorno che gridava Jolly, arrischia tutto, no? Nel 1970, e lo applicano allo sport, ammesso che la Formula 1 sia ancora uno sport, che costoro governano. Ecco, dovrebbero tutti andare alle Bermuda, alle Barbados, alle Bahamas. One way only, Leo? Insomma, io one credo che only. Ce ne sarebbe. C'è Marco che scrive: Giochi senza frontiere lo facevano 20 anni fa, mi gioco il jolly. Sì. Adriano da Roma scrive: da anni sostengo che l'unica rivoluzione decente per la Formula 1 è la griglia di partenza in ordine inverso rispetto al Gran Premio precedente. E so che anche su questo tu hai un'idea. Io ho un'idea che, però, dico sommessamente, temo. Che questi Highlander, questi immortali della Formula 1 prossimamente applicheranno davvero. Allora mi spiego, se dobbiamo ridurci a far sì che l'ultimo Gran Premio Jolly Briscolone eccetera vale il doppio, tanto varrebbe dire, vabbè, diamo dei punti a chi conquista la pole al sabato, no? Perché quello, come diceva Gianni Agnelli, è il momento più spettacolare, quella sfida, no? Il giro secco, sì, eccetera, sì, sì. Quindi la premiamo anche in termini di classifiche ridata. Dopodiché però invece del briscolone facciamo la griglia di partenza per sorteggio random, voglio dire, tu sei Vettel, fai 10 punti di fila e noi ti mettiamo nell'urla di Blatter, pallina calda, pallina fredda, arriva il Zidane, Vettel partirà sempre, la nona e l'undicesima fila. Perché lo vero scopo di io voto a favore, io sappi che se c'è da votare al consiglio dei 10 assenti voto a favore. Ma allora il motivo per cui si riducono a fare queste robe è perché hanno paura di un campionato troppo spesso dominato da una macchina, da un pilota, perché noi adesso abbiamo appena visto il 2013, ma il 2011 fu uguale, cioè mettersi l'Oreo campione anche lì con un paio di mesi di anticipo, e allora tirano fuori queste robe qui, e non tanto male, si va da fino in fondo, premiamo la pole position, però poi dopo sorteggio, allora tu sei in Vettel, sei più veloce, è andata male, parte dalla decima fila, sei obbligato a fare 18 sorpassi per arrivare davanti, ma io temo malinconicamente, caro gente, che li farebbe. Li farebbe come? Bravo Adrian Newey che ho il sospetto che li farebbe. Non ci metterebbe nemmeno molti giri a farli, secondo me. Una decina di... sarebbe davanti, sarebbe nei questo primi non lo fermiamo neanche col briscolone. Sì, col briscolone no, ma no. Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Non so se lo guardavi da piccolo, l'estrazione del lotto svizzero a numeri. Te ricordi? Assolutamente spettacolare. Quando si vedeva in tutta Italia la televisione svizzera italiana. Esatto, televisione svizzera italiana. Il sabato sera c'era l'estrazione del lotto svizzero a numeri con le palline. Ma sai perché io la vedevo? Perché io prima guardavo la partita della Federale di basket che aveva ingaggiato Federale Manu Raga. Federale Viganello. Bravo, ma Raga, che tu sei un fanatico di pallacanestro, Raga da Varese. Aveva semplicemente attraversato il confine quando arrivò Bob Morse nell'allora Ignis e giocava in questa squadra federale di Lugano. Io alle 5 del pomeriggio guardavo la partita e poi dopo arrivava il lotto svizzero. Arrivava il lotto svizzero e poi scaccia pensieri cartoni. Più o meno, sì. Secondo me la Formula 1 ormai ricorda anche certe trasmissioni di TV Copper Capodistria. quando dava la partita di calcio, Banik Vardar alle 15:30 su dei campacci fangosissimi dove faremo partire tre capodistri sul fango, sul fango fuori strada con le gomme artigliate magari ma a proposito dell'estrazione del lotto svizzero a numeri, per Alonso esce il 14, per Massa il 19, Raikkonen non lo sa neanche lui che numero vuole, però che adesso ci saranno numeri fissi, appunto i corridori, i piloti dovranno scegliere loro numero. Questo devo dirti che tra tante scempiaggini è una cosa invece che io condivido, perché ad esempio chi segue le motociclette, per citare insomma il caso classico più famoso, giallo 46 al 46 di Valentino. Questa non è una cosa sbagliata, io spero solo una cosa, ma la dico romanticamente, perché ho una certa età, non come te che sei un giovane emergente, tu sei il Renzi della comunicazione, ma io invece sono della generazione, come dire, dei senatori a vita. Spero che a nessuno però venga in mente di prendere il 27, il 27 rosso era nell'icona, diciamo così, internazionale popolare, il simbolo di Gilles Villeneuve, no? Sì. Allora, se proprio il 27 deve essere assegnato, perché poi adesso finora con 11-12 scuderie al 27 non ci si arrivava più come numero, almeno che lo prenda uno della Ferrari, ecco, uno dei due ferraristi. Non so che gusti abbiano loro. Beh, ma se poi va via, se lo porta dietro. Lo so, però magari io spero, guarda, il mio sogno, te lo dico, posso tanto... sarebbe che lo prendesse Raikkonen, vincesse un mondiale 7 anni dopo il primo, e a quel punto si può anche ritirare, si porta via il numero, perché comunque ci ha riportato il mondiale qui. Anche se credo che Raikkonen, poi magari mi sbaglio, ma lui era un grandissimo fan della memoria di James Hunt. Quindi prende l'11. Prende o l'11, secondo me, o il 24, che era il numero col quale Hunt correva con la macchina di Lord Esket. La Esket, ma certo. Che se vuoi ti ricordo quando Esket venne a far provare Hunt alla pista di Fiorano. Me lo ricordi un'altra volta, così teniamo la gente in sospeso. Perché io ti lascio invece con due messaggi. Fantastica. Massimo che scrive: Turrini, il più grande showman della storia, lo vorrei sentire tutti i giorni, ma anch'io. Gianmarco su Twitter: Leo, al maggio di Roma Noro, ti aspettiamo per cantare. Mi domanda di ricordartelo e io lo faccio. Dovrò poi spiegarti che cos'è, perché detta così è una forma di canto popolare. Ma noi, secondo le migliori tradizioni, lasciamo tutti col fiato sospeso e ci risentiamo presto, Leo. Quando vuoi, perché sai che io ti sento, mi metto ignudo. Complimenti ancora. Ciao, un abbraccio.